blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sei un porco, un disgraziato. Ma che sei impazzita, ti giuro, Elena, mi devi credere. Ieri sera sono andato con Pasquale. Pasquale, mio cugino, siamo andati al cinema insieme. E che film avete visto? Abbiamo visto i travolti nel mare azzurro. Travolti dal solito destino, sì, nell'azzurro mare d'agosto. E perché sei tornato alle due? Perché Pasquale ha voluto andare a cena, sai, dopo 2 anni di carcere aveva bisogno di stare un po' in mezzo alla gente. Certo, in che ristorante voi siete stati? A Trastevere. Trastevere, sì. Da chi? Da quello famoso, il Boia. E che vi avete mangiato? Le solite cose. Elencale. L'antipasto, il solito affettato, insomma. Il solito affettato. E per primo? Oh, per primo ho mangiato le tagliatelle, quella alle bolognese. Le tagliatelle alla bolognese. Per secondo? Secondo il pollo, il solito pollo. Che parte del pollo, quale contorno e quale dessert? Lara, i finocchi al gratè, poi per dolce la torta margherita. Certo, quando uno deve cominciare a dare spiegazioni dettagliate, si incammina lungo una strada molto perigliosa. Questa è una scenetta tratta da un film, Viene avanti cretino, in cui un signore, la cui moglie ha avuto informazioni dettagliate su una sua deriva di tipo fedifrago, deve in qualche maniera giustificarsi. Questa è la fiction, ma suppongo che se la notizia di cui sto parlando corrisponde a verità, e non ho qui né smentite né conferme, dalle parti di un certo paesino nel napoletano sta accadendo qualcosa del genere. Ora, questa è una storia che ho letto in rete e sta prendendo molto il piede in vari siti, ma anche siti di giornali titolati. A Torricella di Nola, che è un paesino di 30... Piazzolla di Nola, che è un paesino di 30, paesino, una frazione, un 30.000 abitanti mi sembra, frazione di Nola, da qualche giorno sta girando la notizia che una tal signora del posto di Piazzolla, abbiamo cercato rappresentanti istituzionali, non abbiamo trovati, stanca di essere lungamente oggetto di malelingue del paese che le attribuivano una condotta morale non proprio irreprensibile, insomma le avevano dato una patente di donna facile, essendosi stancata di questa patente si è presa la vendetta nei confronti dei suoi concittadini, ha stabilito una ventina di punti chiave in cui ha posto delle locandine, manifestino, volantino, non si sa perché non c'è la copia fotografica del documento, ma ne parlano tutti, e quindi come sempre accade in qualcosa che è una zona liminare tra la leggenda metropolitana e la realtà, comunque assume un valore emblematico, simbolico, qualcosa comunque nella società. Beh, in questi volantini avrebbe descritto con minuzia un numero rilevante dei suoi concittadini parlando di quello che tutti sanno ma nessuno dice, tipo quella tal signora si rivede ancora con il suo amante, quel tal signore frequenta quelle tali ragazze, quel tal signore ama andare a trans, quel tal signore dall'aspetto molto virile in realtà ha frequentazioni con baldi giovincelli del posto, e via dicendo e via sparlando, dando anche un successivo appuntamento, quindi promettendo la cosa non finisce qua. Ora, tutto questo in sé rientra in un tradizionale sistema di sputtanamento che normalmente una volta avveniva attraverso lettere anonime, vergate con calligrafia incerta, se colui che stendeva la lettera era di un livello basso culturale, un pochino più raffinate nel tempo, ritagliando le letterine dei giornali, che era il sistema più tranquillo e più sicuro per poter, diciamo, non essere identificati. E qua si faceva l'elenco, guarda, ho il disegno delle mani cornute, tu sei cornuto, oppure quello fa quell'altro, addirittura esistono posti dove certe cose le scrivono sui muri, la tale signorina frequenta il tal signore, oppure il tal signore ha questo tipo di abitudine. Questo rientra negli usi paesani, ma in realtà è qualcosa che è tracimato nella civiltà digitale. Il fenomeno del revenge porn, della vendetta pornografica, è uno di quelli che più sta dando grattacapi a chi gestisce i grandi social network. Ad esempio Twitter recentemente ha dovuto modificare le proprie policy, riguardo alla privacy, cioè le regole che stabiliscono la privacy, proprio perché è stato necessario mettere su un gruppo di specializzati che filtrano tutti i messaggi di Twitter e laddove incorrono nel revenge porn, cioè nella vendetta pornografica, devono intervenire decisamente. Consiste soprattutto in amanti, fidanzati, mariti, soprattutto il genere maschile, ma anche le donne indulgono in questa attività, che per qualunque ragione sono stati lasciati, abbandonati, è finita una storia d'amore, è finito un idillio, un matrimonio, un fidanzamento, si vendicano verso il partner che ha osato, diciamo, abbandonarli, mettendo in rete informazioni sulla vita privata, sessuale, foto, immagini, filmati che magari appartengono al tempo dell'idillio e che non hanno più ragione di essere divulgati. Siccome il fenomeno è molto importante e si creano veramente grossi danni, danni innanzitutto alla rispettabilità della persona, alla personalità, con la pubblicazione di foto intime private che non hanno nessun senso divulgarle, ma anche addirittura va avanti questa vendetta pornografica pubblicando, non so, i numeri delle carte di credito, le password per accedere in aree private della persona. Insomma, è un fenomeno molto complicato. Ecco, voi come siete mai stati lambiti da questa sorta di onda malevola, da questo venticello velenoso della maldicenza che diventa ancora più accentuato quando c'è di mezzo una compromissione personale? Un vostro ex o una vostra ex mi ha mai fatto dei danni così feroci? Siete mai stato oggetto di maldicenza? Vi è mai venuta la tentazione di rendere pubblico qualcosa di segreto e di privato che avete saputo di persone della vostra cerchia familiare, dei vostri amici che conoscete, persone potenti a cui volete far del male per il solo gusto di far del male, anche se non vanno fatto niente? 800 24 00 24. Milena, la notte non dormo. Troppi caffè, ragioniere, che io dico sempre. Non scherzi, la prego. Milena, sono innamorato di lei. Ragioniere, io conosco la sua signora, è tanto distinta, e viene sempre a mangiare le paste da noi. Non me ne parli, per piacere. Posso almeno sperare, Milena? Ma cosa dice, ragioniere? Questo è l'approccio in Signore e Signore di uno protagonista dell'alta borghesia, della cittadina veneta, che ci prova con la cassiera e poi ci riuscirà. Ma lui era sposato, ma questo non importa. Ma questo potrebbe diventare un succoso elemento di diffusione o attraverso i sistemi tradizionali analogici, lettere anonime scritte sui muri, alimento volontario delle voci di corridoio, di paese, di bar, di trattorie, o attraverso gli strumenti di interfaccia digitale, attraverso dei tweet, dei messaggi che appunto mettono in atto questa attività deleteria che è la vendetta pornografica. Avvocato Guido Scorza, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. L'avvocato Scorza, che è in treno, è proprio nella zona di Signore e Signore, perché mi sembra stia andando da, non so, assolutamente da... Ecco, quindi sta respirando. Una chiacchierata sul treno accanto. Perché sta andando a Padova, a Vicenza, non so bene dove sta andando. Pordenone. È docente di diritto alle nuove tecnologie, è autore di un libro appena uscito, Meglio se taci, scritto assieme a Alessandro Giglioli, Pribaldini e Castoldi. Ecco, vediamo di capire quanto sia influente nella civilizzazione digitale, che sembra che ci stia portando verso una nuova era, questo fenomeno residuo della vendetta pornografica. Perché Twitter, ma anche Facebook, si stanno attrezzando proprio per andare contro questo fenomeno? Ma diciamo che le grandi piattaforme si stanno attrezzando essenzialmente per porsi al riparo dal rischio che un giudice possa chiamarli a rispondere per queste forme di vendetta dei loro utenti. Quindi diciamo non è essenzialmente una risposta etica o morale rispetto ad un fenomeno, è quanto piuttosto il volersi sottrarre al rischio che un utente utilizzi Facebook, Twitter o altra piattaforma per vendicarsi della sua ex, e che poi la ex, oltre a citare in giudizio l'utente in questione, se la vada a prendere con Twitter o con Facebook per aver amplificato un dato che avrebbe dovuto, o un'immagine o non so cos'altro, che avrebbe dovuto rimanere personale, mentre invece è entrata nell'orbita. Ecco, poniamolo subito in termini concreti. Quanto si rischia? Facciamo per assurdo, Fabrizio Intonti si lascia con una sua amante, ha delle foto intime, lui fa il fotografo, fatte con l'amante, le mette su Twitter, dice guardate chi è questa donna, questa specchiata madre di famiglia che ho frequentato. Cosa rischia Intonti? Beh, allora, rischia sicuramente sanzioni anche di carattere penale, rischia persino la galera, perché diffonde al pubblico dei dati indubbiamente personali, ovviamente nella misura in cui sia riconoscibile la ex o la moglie o il soggetto del quale stiamo parlando. Quindi si rischia l'arresto, questo per chi pensa di scherzare, di mettere su Twitter o su Facebook una foto che non ha diritto di mettere, rischia di essere arrestato. Cioè ben poco da scherzare, rischia soprattutto, perché forse è più frequente che la galera, che la persona in questione gli promuova contro un'azione di risarcimento dei danni, quindi mentre la galera è incerta, il fatto di dover pagare alla sua ex, alla quale voleva fare un dispetto, qualche migliaio di euro, forse ancora di più, per aver leso il suo diritto alla privacy, è una quasi certezza. Quindi avvocato, io per questo ho chiamato lei, la signora di Piazzolla di Nola, e tutti dicono è una cosa antica, ma in realtà è molto più astuta, avrebbe fatto prima a aprire un profilo Facebook fasullo e mettere tutti i nomi con tutte le marachelle dei suoi compaesani, ma l'avrebbero subito identificata comunque facilmente. Con la vecchia lettera anonima rischia molto meno. Beh, diciamo che rischia la stessa cosa, ma ovviamente è ben più difficile che la identifichino. Ecco, la sanzione non cambia, anzi, probabilmente avrebbe lo stesso tipo di conseguenza, però obiettivamente, mentre su Facebook... È più difficile ormai essere identificati diffondendo un volantino che mettendolo su Twitter. A dispetto di ciò che spesso si dice, no? La rete è territorio dell'anonimato, a dispetto di quello che spesso si dice, è vero esattamente il contrario. In rete, tutto sommato, siamo molto più tracciati e controllati di quanto non accada nel mondo. Quindi mi sembra un esempio fondamentale. Sentiamo un attimo Marco, primo ascoltatore, 800240024. Siete mai incorsi nella cosiddetta porno vendetta, sia analogica sia digitale? Marco? Sì, parlo del mio caso, che è un caso collegato a questo argomento, ma c'è un po' più limite. Io ho conosciuto una donna su un sito praticamente di questi social network. Questa donna, abbiamo preso confidenza solo in ambito virtuale, poi abbiamo scambiato delle foto, diciamo, e subito dopo lei ha minacciato di diffonderle in rete. E è passata un ricatto vero e proprio. Ma lei aveva mandato delle foto, diciamo, esplicite? Diciamo delle foto, sì. Col ciufolo al vento, dai, diciamolo, era questo il problema? No. Si intravedeva. E allora che problema c'era, scusi? Non possiamo definirlo ciufolo al vento. Diciamo, si intravedeva un'ombra. Si intravedeva qualcosa, diciamo, no? Ma anche la donna, la ragazza, ha mandato... Ha fatto vedere la passa al vento. Qualche cosa. Beh, lei non ha pensato che era un rischio comunque mandare una sua foto personale a una persona che conosceva soltanto tramite il social network? È un rischio, guardi, allora, è un rischio, ma non so se le risulta, è una cosa molto diffusa. Sì, molto diffusa, sì. Molto diffusa, quindi è un rischio, ma si fa soprattutto se poi c'è una corresponsione. Come è andata a finire? Beh, è andata a finire che io non ho ceduto al ricatto, ho detto va bene, se vuoi pubblicare pubblicale assolutamente, non penso che siano state pubblicate, almeno non ho avuto riscontro, ma c'è stato un ricatto vero e proprio. Quindi chiedeva soldi, cosa chiedeva? Denaro chiedeva? Chiedeva soldi, denaro, assolutamente. Quindi diciamo che una delle fattispecie che ci sono persone specializzate nel ricatto, che adescano gente che pensa di avere un rapporto intenso, soltanto virtuale, ma in realtà si trova coinvolta in una truffa. Melog. Cronache meridiane. Il tuo spazio è veramente uno spazio vuoto, anzi se fosse vuoto sarebbe meglio, mi scrive un ascoltatore, evidentemente non è interessato, non è lambito da questo problema, che invece mi sembra molto invece sentito da vari ascoltatori. Parliamo dei limiti di diffamazione, di svergognamento attraverso la rete e attraverso il mondo reale. Abbiamo visto che ciò che accade nel mondo reale è tracimato nella rete, esattamente la stessa metodologia, cambia semplicemente il supporto dell'interno dell'insulto, della diffamazione, e si rischia alla stessa maniera la pena se si è presi. Naturalmente ormai farlo con un volantino si ha una maggiore speranza di impunità, perché è più difficile essere identificati, ma la pena è la stessa. L'ascoltatore ci ha appena chiamato dicendo che esiste una maniera precisa di ricattare le persone attraverso, ahimè, debolezze che si sono scambiate via rete. Sentiamo su questo Massimo Lattanzi. Massimo Lattanzi, buongiorno. Buongiorno a voi e ben risentiti. Psicologo, psicoterapeuta, fondatore dell'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia, coordinatore dell'Osservatorio Nazionale dello Stalking. Ecco, sì. quanto ti risulta, Lattanzi, che sia uno strumento di offesa questa qua della vendetta pornografica attraverso ex, che sono poi i principali attori del reato di stalking? Sempre più spesso arrivano telefonate o richieste anche via mail di persone che purtroppo subiscono questa modalità, anche perché ormai i social network la fanno da padrona, e diciamo che siamo sempre meno disposti a subire un rifiuto, un abbandono, una separazione. La cosa, se posso permettere, altrettanto interessante è che si sta sempre alzando di più il range di età. Mentre prima era essenzialmente appannaggio dei più giovani, adesso abbiamo un range di età che si sposta sui 50, anche 60 anni. Ecco, tu hai sentito la telefonata di poco fa, mi sembra proprio una case history, come si dice, tipica. Due persone si conoscono, nulla da eccepire, nulla da commentare dal punto di vista, ognuno fa quello che vuole, certo. Piena libertà. Certo. Ci si procura emozioni, si hanno conoscenze, ci si scambiano palpiti, va benissimo. Sì. Però a un certo punto si va in una fase più avanzata del rapporto in concreto e ci si scambia le cosiddette foto, che sono come dei pegni di passione vissuta. Ecco, questa è una fase molto rischiosa, però forse magari è il caso di dare qualche consiglio. Assolutamente sì, in tutte le nostre attività formative di sensibilizzazione noi assolutamente, e a tutte le decine di persone che si rivolgono al nostro sportello, per prima cosa, adesso abbiamo compreso che il range di età è molto vasto, a tutte le persone dai 18 ai 70 anni, anche di più, che si rivolgono al nostro sportello, diciamo immediatamente di non condividere in nessun modo, di non farsi fare né foto né filmati, che purtroppo in qualche momento potranno essere usati come forma di ricatto, sia a livello economico che anche purtroppo su questioni ancora più. Questo Lattanzi anche, diciamo, nella fase apicale dell'amore. Tu hai un grande rapporto con una persona, ti viene la fantasia di farti il filmino zozzo, può venire a tutti, non siamo... Ecco, qua bisogna avere grande attenzione, perché oggi è la persona che ami, che appassionatamente ti ama, domani può diventare il peggiore dei tuoi aguzzini. Esattamente, non dimentichiamo che l'odio è l'altra faccia dell'amore. Noi suggeriamo assolutamente di non farlo a qualsiasi età, ma se proprio non riescono a contenere questa spinta irresistibile, assolutamente non fatevi riconoscere, non mettete la vostra faccia. Se no, fatelo con il vostro telefono, tenetelo per voi e non lo date a nessuno, ecco, almeno. Ma evitiamo l'informazione che dovrebbe passare, evitiamo assolutamente. Considerate ormai tutti gli smartphone hanno un backup automatico in un cloud, esatto, quindi esatto. Il vostro telefono, comunque, appena qualcosa passa nel vostro telefono, già da qualche parte è memorizzato, questo tenetelo a mente. Angelo, buongiorno Angelo. Sì, buondì, saluto tutti i radioascoltatori e voi che siete fantastici. Senta, trova che è uno spazio vuoto, solo per curiosità, un po' per capire. Praticamente io c'ho un mio amico, un mio carissimo amico, che sta passando una storia analoga. È ricattato da una ragazza che ha conosciuto su un social network, ci sono inviati delle foto un po' particolari. E io dico solo una cosa, la mia considerazione. Abbassa la radio, Angelo, per favore. Sì, come ho detto a questo mio amico, una cosa sola: è un po' come Facebook. Se io metto che vado a Sharm el Sheikh, è normale che poi mi trovi ladri in casa. Se io metto delle foto che sono sposato e ho figli e sto facendo, tra virgolette, un tradimento virtuale, dopo ne pago le conseguenze. Io che sono un single, ipoteticamente, se metto una foto e me la pubblicano, sinceramente. Fatti suoi, certo. Pubblicità. Ben venga, voglio dire. Sì, però Angelo, due telefonate nel giro di 10 minuti che dicono la stessa cosa. Viene a pensare che esista una sorta di associazione a delinquere di ragazze che adescano dei giovani romantici e poi gli chiedono le foto zozze, perché Assolutamente sì. Mi sembra pensare che pensateci 10 volte, perché normalmente che una ragazza chiede una foto intima, a meno che c'è un rapporto consolidato, è abbastanza singolare. Pensateci due volte. Condivido in pieno quello che stai dicendo. Cioè è giusto che, secondo me, intanto la foto non serve a nulla. Se ci si conosce e ci si vede di persona, vedi, diciamo, il pacchetto in real, è un'altra cosa. Che io ti faccio una fotografia. Prima di esibire il pacchetto, fai in modo che almeno sia condiviso. Ecco, questo dovrebbe essere il senso. Guido Scorza, torniamo all'avvocato Guido Scorza. Vorrei capire, però, ci sono dei limiti? Uno, c'è qualcosa che può comunque dire senza rischiare? Io posso dire, quella donna mi ha tradito, è una donna lussuriosa, non fate fede alle sue promesse d'amore, o anche questo già rientra nella diffamazione? Ma diciamo che si possono dire le cose che sono vere e soprattutto le cose che non sono personali, per cui dire quella donna mi ha tradito, se quella donna ti ha davvero tradito, e ammesso che questa cosa abbia un interesse per il pubblico, naturalmente il tradimento normalmente non a meno che uno non sia un personaggio dello spettacolo che deve giustificarsi. Ecco, quindi per cui non sarà diffamatorio, anzi certamente non è diffamatorio se il fatto è vero, ma è ugualmente una violazione del diritto alla privacy, perché quella donna dirà, ma al mondo che gliene frega che io ti ho tradito, son fatti nostri. Perché devo passare per una traditrice? Ci sono sempre queste due facce della medaglia. Diciamo che in sintesi bisogna cominciare a ricondizionare quelli che sono i limiti della nostra privatezza in visione di una nostra maggiore espansione attraverso i social network. Grazie avvocato, grazie Lattanzi.